4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata amici dei motori, bentornati, puntata ricchissima. Questa sera proveremo la BMW X1 X-Drive 2000 di Futura, che già sulle strade si inizia a vedere, insieme a Carlo Di Giusto di 4 ruote. Poi ci occuperemo di due inchieste: la manutenzione delle strade che soffre di una diminuzione purtroppo di soldi disponibili, e poi l'efficienza. Tra 37 modelli e 4 ruote che ha provato così tante auto e si è chiesta quale sia la più efficiente. Chiuderemo poi parlando di futuro con Mauro Tedeschini, il direttore del mensile nostro partner, e con l'analista del Sole 24 Ore Paolo Malagodi, con il quale ci intratterremo a proposito di auto elettriche, anche con una sorpresa riferita al passato invece che al futuro. Tutto questo da adesso per circa tre quarti d'ora su Radio 24. È semplice darvi anche la nostra email per raggiungere la redazione: 4ruote@radio24.it. Buonasera Carlo Di Giusto. Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera a te Roberto. Mi ha un po' stupito, sai, vedere in giro la X1, Carlo, perché ci chiedevamo tutti che forma avesse. Poi è molto simile, la Xtrema si intuisce bene che è diversa, vero? Sì, sì. Devo essere sincero, la prima volta che io ho visto la X1 sono rimasto un po' così, l'ho anche scritto nella prova, no? E ho avuto bisogno di abituarmi un po' a questa linea, nonostante ci sia una certa somiglianza con le altre sport utility BMW. Eppure ho percepito una sorta di disagio estetico. Sì. In realtà poi è passato subito una volta che l'ho messa in moto e sono partito. E noi sentiremo dalle parole di Carlo, dalle schede che abbiamo preparato insieme, in realtà un'auto che è piaciuta molto a quattro ruote, un'auto completa che va un po' anche nella direzione che diremo più tardi del downsizing da una parte, ma anche della diminuzione delle dimensioni per occupare sempre meno strada possibile in questo mondo strapieno di auto. Allora sentiamo la prima scheda che ci racconta le caratteristiche principali della BMW X1. Guidarla è un piacere a qualsiasi andatura, e poi è pratica, versatile e non esosa. Ma occhio agli accessori, il prezzo può salire alle stelle. Entrare nell'abitacolo è un po' come sentirsi a casa, immergersi in un'atmosfera calda e luminosa. Vi accoglie così la X1, automobile maiuscola, a dispetto delle dimensioni, con sterzo e motore al top. Nome: BMW X1 X-Drive 20D Futura. Carrozzeria 5 porte a 4 posti. Dimensioni: lunghezza 4,45 m, larghezza 1,79 m. Peso 1575 kg. Motore anteriore longitudinale diesel 4 cilindri. Potenza 117 cavalli. Rapporto peso-potenza 8,89 kg spinti da ogni cavallo. Trasmissione: trazione integrale, cambio automatico a 6 rapporti. Prezzo: da 37.951 euro. Ecco, queste erano le caratteristiche principali della X1. Cerchiamo allora di capire come va questa vettura, Carlo, che l'ha guidata per diversi chilometri. Ti devo dire che innanzitutto, come ti dicevo prima, una volta cominciato a guidarla, la macchina mi è piaciuta subito. Intanto perché ha questo sapore che hanno tutte le BMW, quindi un'automobile che ti dà una grande sensazione di controllo, un'automobile che ti permette anche di toglierti qualche soddisfazione quando stai percorrendo una bella strada, e una BMW un po' anomala perché ha le dimensioni di un'automobile normale, anche dentro, l'abitacolo normale, non molto raccolto come le berline BMW che sono piuttosto sportive, e quindi un'auto che si presta bene a svolgere il ruolo di auto da famiglia. Sì, anche perché insomma può essere anche un'auto da giovani però. Beh, direi proprio di sì, perché a differenza di altre vetture di questo tipo, questa ha un prezzo d'attacco che parte da 29.900 euro, se non sbaglio, e quindi alla portata di una vasta fetta di utenti. È chiaro, anche i più giovani. È chiaro che il SUV insomma piace sempre tanto, nonostante sia tanto criticato. Piacciono un po' meno i grandi SUV, ma vedi come i piccoli e medi SUV stanno davvero ottenendo un ottimo successo anche sul nostro mercato. Se dobbiamo identificare un difetto, un lato debole, io vedo un 3,5 stelle nel comfort, nella pagella che sentiremo tra poco, Carlo. Sì, è vero, perché è un pochino più rigida del normale, proprio per le caratteristiche che deve avere, anche in virtù del fatto che l'esemplare provato aveva le ruote da 18 pollici, quindi con poca gomma, e tanto ferro, insomma. Decisamente. Allora ascoltiamo insieme ora la pagella che dà i voti a questa BMW X1. Posto guida. Seduta non troppo bassa né troppo alta. Giusta, insomma. Sedile con tante regolazioni ampie. Voto 4 stelle e mezzo. Finitura. Grande qualità sia nell'assemblaggio sia nella scelta dei materiali e molta cura del dettaglio. 4 stelle e mezzo. Comfort. Piacevole la X1, rigida ma capace di smorzare bene le asperità, se solo fosse un poco più silenziosa. Voto 3 stelle e mezzo. Motore, un signor turbo diesel, potente, generoso, eccezionalmente parco. Voto 5 stelle. Freni, l'impianto è resistente e sopporta bene la fatica. Gli spazi d'arresto rientrano nella norma. 4 stelle. Su strada, sempre sicura e facile, non mette mai in apprensione, neppure quando si esagera. 5 stelle. Ecco, questi erano i voti della pagella della BMW X1. Carlo Di Giusto chiude con due pregi riassuntivi e due difetti della BMW X1 e ci salutiamo, Carlo. Quello che mi è piaciuto di questa auto sono state intanto l'accoglienza degli interni, che sono spaziosi ma sono anche molto eleganti, molto belli e suggeriscono proprio una guida rilassata. È bello passare del tempo dentro questa automobile. L'altro pregio è quello un po' di tutte le BMW, sì, è una qualità della guida straordinaria. Ok, difetti? Beh, difetti direi, come ho detto prima... Un po' di comfort? Un po' rigida e poi il prezzo. Il prezzo però quando si comincia a salire, uscire la vettura di accessori. La BMW offre la possibilità di personalizzare moltissimo le proprie automobili, ma chiaramente questo ha un costo molto elevato. Molto bene, grazie davvero a Carlo Di Giusto di Quattro Ruote e buona serata. Buona serata a tutti e grazie a te Roberto. Quattro Ruote e dintorni. Allora, dicevamo, un'inchiesta sulla manutenzione delle strade e una sull'efficienza di 37 veicoli realizzata da Emilio Brambilla di Quattro Ruote, che sentiremo tra poco. Prima però vi presento il direttore del SITEB, un'associazione importante, Stefano Ravaioli. Allora intanto buonasera e benvenuto. Buonasera Ravaioli, buonasera. Il SITEB è un'associazione che si occupa di un aspetto che noi spesso sottovalutiamo, associazione italiana bitume asfalto strade, cioè ciò di cui sono fatte le nostre strade, e sembra un dettaglio in realtà non lo è, perché di mezzo c'è una cosa che si chiama sicurezza stradale. Noi la sentiamo per farla sfogare, direttore. Mi hanno detto che lei è un po' arrabbiato perché sono diminuiti i soldi per la manutenzione delle nostre strade. Ci racconta tutto? Sì, in verità sono più che un po' arrabbiato. La questione non è una questione così banale, è anche radici lontane. Analizzando i dati che ci vengono anche dall'Europa, confrontati con i nostri, noi abbiamo visto che mentre in Europa i soldi di manutenzione stradale sono andati in continuo crescendo negli ultimi 6-7 anni, a un ritmo anche sostenuto, in Italia nello stesso arco di tempo si è verificata invece un'inversione di tendenza. Sì, questo perché è avvenuto? Cioè c'è la crisi, mancano i soldi e dunque anche il vostro settore ha dei tagli o perché? Non è collegato alla crisi economica mondiale, questa qui è recente, sarebbe relativa soltanto agli ultimi 2 anni, invece noi abbiamo, diciamo così, un periodo di crisi molto più lungo, parte più o meno dal 2004, dal 2004 in poi abbiamo diminuito e noi che abbiamo bisogno di 40-45 milioni di tonnellate d'asfalto per mantenere in essere, in efficienza la nostra rete, oggi siamo sotto i 30, probabilmente a 29, significa che una strada su 4 non è a posto, non potrà essere a posto, questo perché è difficile da capire, mentre tutti gli altri paesi negli ultimi 15-20 anni hanno investito in infrastrutture, il nostro paese ha fatto marcia indietro, si è adagiato su una situazione di comodo che era tale negli anni 80-90, ma oggi non è più così. Il prodotto interno lordo ha alcune percentuali che vanno in infrastrutture, l'Italia è quello che ha investito meno di tutti e il gap con gli altri paesi europei è notevole e lo si vede semplicemente andando in Spagna, andando certo, in Francia. Certo, la qualità delle strade, è chiaro. Ci sono anche delle ricadute occupazionali tra l'altro di queste. Ovviamente, perché una crisi del genere, ripeto, è più antica di quanto si pensi, produce inevitabilmente dei fenomeni di riduzione del personale. Noi abbiamo circa 500.000 persone che lavorano nel settore, 50.000 sono coloro che si sporcano le mani col bitume, diciamo così, e tra queste 7-8.000 oggi sono a grave rischio occupazione. Ci sono oltre 100 impianti d'asfalto fermi su circa 600, e questo è un dato che deve far riflettere, e sono impianti indispensabili per la manutenzione stradale. Del resto lei vede con i suoi occhi, quando viaggia per le strade si accorge di come è messa la situazione, quindi non c'è bisogno che io aggiunga molte parole. Decisamente. Che cosa si potrebbe, per fare gli ottimisti, consigliare a chi ci governa, a chi ha il potere di fare qualche cosa, direttore? Domanda molto difficile, sì. La classica domanda è impossibile, la risposta è complicata, però che cosa si potrebbe fare? Qualche cosa si potrebbe fare, intanto evitare gli sprechi. È vero che oggi abbiamo il patto di stabilità che blocca quasi tutto, le strade sono praticamente di proprietà dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, quindi il patto di stabilità incide enormemente, però è anche vero che le nostre strade, le nostre opere pubbliche in generale ci costano da 3 a 5 volte più che in tutti gli altri paesi, sì. Significa che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di fondo, c'è qualcosa di strutturale, qualche cosa che va indagato all'origine. Le pubbliche amministrazioni che appaltano non sono sempre all'altezza del compito, ecco, questo è un motivo. Bisogna intervenire anche probabilmente sul codice degli appalti. Chiaro. Ci sono tanti motivi, è difficile trovare una causa unica. Unica, però era importante sollevare questo problema e siamo qui apposta. Per ora grazie, ma rimarremo in contatto con il SITEB, grazie anche a Stefano Ravaioli che ne è il direttore. A presto e buona serata. Grazie a lei. Cambiamo adesso argomento e ci occupiamo di efficienza. Ne parliamo spesso nel campo motori, ma poche volte riusciamo a fare dei confronti sensati. E la cosa migliore sarebbe sempre quella: salire e scendere da auto diverse, ma nello stesso giorno, con lo stesso pilota e sullo stesso percorso. Quattro Ruote ha fatto qualche cosa di più, addirittura ha preso decine di modelli e si è chiesta quale sia il più efficiente. Emilio Brambilla, buonasera e bentornato. Buonasera a tutti. Ci dici il senso un po' più compiutamente di quanto io abbia detto di questa prova, Emilio? Siamo partiti dal fatto che le industrie automobilistiche di solito le sparano grosse, soprattutto quando si parla di consumi e di prestazioni, e comunque ci sono magari dei trucchetti che consentono di dichiarare dei consumi particolarmente bassi, senza però dire che vanno a compromettere la guidabilità e le prestazioni dell'automobile nel traffico. Quindi noi abbiamo ideato questa specie di efficientometro, così l'abbiamo chiamato, che assomiglia a un bersaglio delle freccette, e vi abbiamo collocato tanti pallini quanti sono i modelli considerati, come dicevi tu 37. Sì. Più questi pallini cadono vicino al centro del bersaglio, tanto più le automobili sono efficienti. Noi abbiamo considerato i dati rilevati dalle nostre prove su strada, quindi noi lavoriamo con dati effettivi, non i dati dichiarati dai costruttori che, come sappiamo, spesse volte sono molto ottimistici. E comunque, così facendo, abbiamo considerato per esempio il valore della ripresa in quinta o in sesta marcia, il valore del consumo in autostrada, il dato del consumo in città, il peso dell'automobile, la prontezza del motore nelle accelerate in terza marcia da 30-60 all'ora. Considerando tutti questi nostri dati reali, abbiamo costruito proprio questo bersaglio e vi abbiamo lanciato queste freccette, vedendo quali sono le automobili che si comportano complessivamente nel modo più equilibrato, proprio partendo dalla considerazione che è facile fare un'automobile che consuma pochissimo, ma che però è lenta come una tartaruga e quindi è sgradevole. E quindi noi abbiamo cercato di individuare per le cinque categorie che abbiamo considerato quali sono le macchine più equilibrate. Noi siamo partiti dalle piccole, sì, fino alle SUV di medie dimensioni. Allora iniziamo a sentire categoria per categoria il vincitore, la vincitrice, Emilio. Sì, vi ho detto che queste 38 macchine non sono tutte quelle del mercato, il listino di Quattro Ruote contiene migliaia di modelli. Tra quelle che abbiamo considerato nelle piccole vince la Smart, la Fortwo, perché non solamente è compatta e leggera, ma anche un piccolo e molto efficiente motore turbo. Sai che il motore turbo, contrariamente a quello che si può pensare, è un po' il motore di domani, perché abbina compattezza, leggerezza, prestazioni e bassi consumi. Sì. Questo risultato quindi è indicativo di una strada, della validità di una strada che si sta seguendo. Passando per esempio in questa categoria, conta anche molto la dimensione del corpo vettura, perché tra i dati che abbiamo considerato vi è anche la potenza persa per la resistenza aerodinamica che si deve vincere per viaggiare con la macchina a 130 km all'ora. Certo, certo, che ha un senso e che poche volte viene misurato, è chiaro. Infatti questo. Ed è proprio questo che penalizza per esempio le SUV, che sono la categoria all'estremo. È anche chiaro. A parità di motore una SUV è penalizzata rispetto a una berlina o una station normale, perché ha una superficie frontale della carrozzeria che è molto più grande. Perché infatti le case di solito dichiarano mirabilie per i valori del CX, che è l'aspetto dell'aerodinamica influenzato dalla forma della carrozzeria, però non dicono niente del fatto che continuano a farli lievitare questa superficie frontale della carrozzeria, che conta esattamente quanto il CX nel peggiorare poi i consumi. È chiaro, è chiaro. Andiamo a un'altra categoria. Nelle medie piccole, ecco, vince l'Alfa Romeo Mito turbo diesel 1600, e anche qui il fatto che vinca un turbo diesel, come anche nella categoria delle medie superiori dove si impone la BMW 120 diesel, la dice lunga sull'efficienza di questo motore, che nonostante i miglioramenti dei benzina rimane sempre il motore tradizionale più efficiente, che abbina le prestazioni ai bassi consumi. Parlo di motore tradizionale perché poi con l'arrivo delle ibride le cose un pochettino cambiano, soprattutto in città, perché lì non c'è l'aiuto del turbo, ma in compenso c'è l'aiuto del motore elettrico. Quindi sarà interessante vedere quanto più si diffonderanno le ibride, dove andranno a finire in questo nostro efficientometro. Decisamente. Poi chiudiamo con le ultime categorie. Chiudiamo. Nelle medio-grandi si impone la Mercedes 220 diesel station e nelle SUV medie la Subaru Forester, anche qui il diesel. Tra l'altro appunto abbiamo messo a confronto i dati della Subaru turbo diesel con quelli della Subaru GPL benzina, e si vede che anche qui, soprattutto per combattere la stazza delle SUV, il diesel non ha rivali. In questo caso dunque mi sembra di capire che il diesel riesca a vincere in diverse categorie e che a livello di efficienza, insomma, valga sempre la pena rivolgersi al gasolio. Sì, a meno che adesso con la diffusione dei piccoli motori benzina turbo, almeno per le piccole e le medie piccole, la cosa diventa più equilibrata. Però man mano che si sale di categoria, dalle medie in su, sicuramente il diesel, come ho detto in prospettiva, il ibrido è vincente. Grazie per ora Emilio Brambilla da Quattro Ruote, a presto e buona serata. Buona serata, ciao. Quattro Ruote e dintorni. Dunque, come previsto, facciamo adesso due chiacchiere in chiusura di trasmissione con Mauro Tedeschini, il direttore di Quattro Ruote, con il professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore. Con loro ci occuperemo di futuro, un futuro immediato. Con Tedeschini si è parlato molto di incentivi questa settimana, e un futuro un po' più in là, 2011-2012, con il professor Malagodi, per quanto riguarda le auto elettriche. Iniziamo dal direttore di Quattro Ruote. Caro Mauro, allora buonasera, bentornato. Buonasera a voi. Come hai recepito tu queste voci che davano subito per certi gli incentivi, poi Scajola ha puntato i piedi, c'è un discorso Fiat molto importante, perché poi in Italia su questi tavoli, insomma, il libro Fiat è molto più spesso di tutti gli altri, ovviamente. Non c'è dubbio. Beh, diciamo che allora fino a gennaio, così come ha detto il ministro Scajola, non sapremo esattamente come saranno articolati questi incentivi. Dalle mezze frasi che lui si è lasciato scappare possiamo presumere che saranno incentivi un po' più deboli in termini economici rispetto a quelli di quest'anno. Forse potrebbero mantenere gli stessi importi le macchine cosiddette ecologiche, cioè GPL, metano, che appunto è molto caro ovviamente al costruttore nazionale, e anche ibride elettriche che stanno cominciando ad arrivare. Quindi sulla rottamazione si potrebbe scendere dai 1.500 euro, perché la dotazione complessiva che è stata stanziata, che è di 550 milioni di euro complessivi, sì, non consentirebbe forse di andare oltre i 1000 euro per macchine, quindi di tornare indietro più verso quelle che erano le condizioni degli anni precedenti, quando c'erano 800 euro a macchina per la rottamazione. Dei precedenti incentivi, è chiaro. Però se questo significa allargare un po' la base, mettere in moto anche gli acquisti e il rinnovo del parco circolante, credo che questo non sia male, decisamente. È indubbio che il mercato di quest'anno, hai visto che andamento ha avuto, ne parliamo anche dopo con Malagodi, che ci segue sempre a inizio mese per quanto riguarda le nuove immatricolazioni del mese precedente. Insomma, grandissimo pessimismo fino ad aprile-maggio, poi qualcheduno ha iniziato a tacere su previsioni pessimistiche da 1,7 milioni, 1,8 milioni, oggi si parla di più di 2 milioni abbondantemente. Quanto sono stati importanti gli incentivi secondo te in definitiva su quest'anno? Moltissimo, moltissimo, perché se noi andiamo a vedere il parco macchine complessivo immatricolato, le automobili con incentivo ormai sono la stragrande maggioranza, molto di più degli anni precedenti, e c'è tra l'altro una corsa agli incentivi in questi ultimi mesi dell'anno. Basta dire che novembre ha fatto più del 30% di incremento, legato proprio al fatto che gli italiani sono molto attenti ovviamente a questi argomenti, hanno capito che nel 2010 gli incentivi potrebbero essere ribassati e quindi hanno tempo fino al 31 dicembre per approfittare di queste occasioni, visto che poi la legge consente di immatricolare le macchine già regolarmente prenotate fino al 31 marzo appunto del 2010. E quindi gli incentivi hanno pesato moltissimo, e del resto hanno pesato moltissimo anche in Germania, dove il mercato si è molto rallentato dopo la fine degli incentivi, hanno pesato molto in Francia e anche in Spagna, dove da un mercato che addirittura calava del 40% si è passati a un segno più. E quindi credo che mai come in questo momento la politica è decisiva nel mondo dell'automobile. Politica che ha determinato anche alcuni fenomeni, Mauro, per esempio il grande successo è inevitabile del GPL, sì, attenzione all'ambiente ma anche attenzione al portafoglio, il metano che arranca un po' di più, diceva Malagodi che potrebbe esserci una volontà di invertire un po' la rotta. Tu vedi sempre il GPL vincente o secondo te il metano recupererà? Perché oggi un'auto su quattro nuova viene venduta a GPL. Ma sì, lì però tieni conto che è un problema soltanto di gamma, nel senso che in realtà l'offerta metano è molto più ristretta dell'offerta GPL, perché nel GPL ormai sono presenti praticamente tutte le case. Nel metano c'è molto forte il gruppo Fiat, che ha più del 90% di quota, più pochi altri costruttori, e poi sappiamo che il metano ovviamente ha il grandissimo problema che molte regioni d'Italia sono completamente sprovviste di impianti per fare il rifornimento, e quindi ha dei limiti fisiologici che non verranno superati se non appunto quando verranno costruiti i distributori. Per il GPL è un problema che pure esiste, ma in maniera molto minore, perché in realtà la rete è molto più capillare, e quindi già oggi in Italia una macchina su tre che viene venduta nuova è o a GPL o a metano, no? E noi sappiamo che in realtà questa percentuale potrebbe essere ancora più consistente, fino a superare il 40% se ci fosse più disponibilità di prodotto, esattamente come dicevo prima. Senti, un altro fenomeno importante è il downsizing, da una parte praticato dalle case che cercano di ridurre quasi tutte, non tutte, ma quasi tutte, la cubatura, le cilindrate, per ridurre le emissioni e i consumi, però mantenendo le prestazioni. Abbiamo avuto anche delle auto 1.4, mi ricordo la Golf GT provata con voi, andava molto bene, con due turbo addirittura. Dall'altra però anche il mercato che si è mosso comprando molte auto di piccola e media cilindrata, soffrono di più quelli grandi, e così sarà l'anno prossimo secondo te? Io penso di sì, questa ormai è una tendenza a mio parere irreversibile, dettata un po' dalla crisi economica che ovviamente orienta verso macchine più economiche, un pochettino è dettata dal fatto che la gente si è resa conto che soprattutto nelle grandi città ci sono dei problemi di spazio enormi, e quindi per parcheggiare nei box, anche per circolare meglio, avere macchine piccole molto più produttivo, e poi c'è il fatto che finalmente l'offerta delle case è diventata molto più consistente, perché ormai tutte le case, anche quelle che fanno automobili di lusso, hanno lanciato dei modelli di piccole dimensioni che però, come dicevi tu giustamente, non hanno nulla da invidiare alle macchine maggiori, perché hanno grandissimo comfort, belle linee, cosa che ovviamente in Italia è molto importante, ma anche prestazioni, soprattutto per quello che riguarda la coppia, cioè la famosa ripresa, siccome in realtà insomma nessuno può andare più dei 130 e tutte queste macchine così potenti non è che poi vengano sfruttate a pieno. Io credo che questa sia una tendenza molto intelligente che spero che continuerà. Molto bene, per ora grazie, ci sentiamo a fine anno per la consueta perfetta chiusura, Mauro, di tutto il 2009. Bene, grazie, intanto già comincio a fare gli auguri a tutti. Grazie, grazie di cuore a Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, seguito a ruota dal professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore, nostro complice ogni mese per quanto riguarda il mercato. Caro professore, bentornato. Ben ritrovati, seguito a ruota però a distanza di sicurezza. Sempre della dovuta distanza per non rischiare di tamponare il veicolo che ci precede. Certamente. Abbiamo seguito durante la settimana anche le varie cavalcate su e giù dagli aerei del buon Marchionne, che insomma sta facendo parlare di sé in realtà più in America che qui, ed è stato notevole una sua audizione, non so se l'ha seguita, in cui in America ha parlato molto dello spirito americano di adattamento per l'uscita dalla crisi e molto della lentezza europea. Ci stiamo americanizzando di nuovo, professore, secondo lei? Beh, questa tendenza di Fiat a sviluppare più dinamicamente cose negli Stati Uniti è evidente anche in queste dichiarazioni di Marchionne. Noi siamo un paese che ha molte incrostazioni, ha molta lentezza nel decidere, un po' come tutta l'Europa, l'Italia poi è speciale in queste cose, e quindi lui trova negli Stati Uniti un terreno più facile a iniziative che per Marchionne sono rapide nella decisione, debbono essere rapide nell'attuazione, anche per essere in testa rispetto ai concorrenti che non stanno a guardare. Quindi è una considerazione da rispettare e che potrebbe portare a più iniziative Fiat di là dall'oceano di quante non ci siano di qua dall'oceano, della nostra Italia in particolare. Questa è la mia opinione. Anche perché nella nostra, voglio dire, sana provincialità, noi pensiamo sempre che Fiat sia Italia. In realtà con l'unione al grande gruppo Chrysler Jeep si parla di 4 milioni di veicoli l'anno, di cui 600.000 in Italia, quindi in realtà è una piccola percentuale. Poi si parla di trasformazioni, si parla di difficoltà di un marchio Lancia, ottimo marchio per tutta la sua storia alle spalle, tutti ricordiamo anche le glorie sportive e le vetture che Vincenzo Lancia anticipò rispetto ad altri concorrenti, la Lambda, la struttura portante e quant'altro, però è un marchio che ancora oggi ha il 90% delle vendite nella sola Italia e nemmeno il 10% delle vendite fuori Europa. Allora Marchionne dice: a questo punto facciamo una scelta, Lancia va bene per il pubblico italiano, però sul pubblico internazionale ha più rispetto un marco Chrysler, allora probabilmente potremmo vedere delle Y per l'Italia marchiate Lancia e distribuite negli altri mercati come Chrysler, rinunciando al fasto, alla fama di Lancia, che però non tiene commercialmente sugli altri mercati. Anche questa è una logica molto pragmatica che è difficile contrastare, se non con il rimpianto di non vedere una Lancia marcata come tale in paesi come la Francia, la Germania o quant'altro. È chiaro, questo insomma farebbe drizzare i capelli a molti, si capisce, insomma, però le visioni sono proprio in mano a gente che è capace di averle o che dovrebbe essere capace, per cui insomma creano anche il mercato del domani. Professore, dicevo prima, parlavamo appunto di domani inteso come 2010, soprattutto con Tedeschini, ma lei ha commentato molto bene, direi, anche questo punto di vista, ma con lei soprattutto di 2011 e 2012. Arriva l'elettrico. Vogliamo iniziare a parlare, come lei ha fatto sul Sole 24 Ore una settimana fa, di mercato elettrico? Ha senso secondo lei? Beh, il titolo del Sole 24 Ore era molto azzeccato: le batterie sotto il cofano. In realtà le batterie stanno sotto nel pianale, sotto il cofano ci sta un motore elettrico molto più semplice di un motore endotermico a scoppio, sia esso benzina, diesel o GPL o metano, per tutta una serie di ragioni. Però vorrei iniziare dando a lei, Roberto, agli ascoltatori una notizia che ci porta al 1903, alla nostra Italia, perché stamattina, spulciando il catalogo di un'azienda specializzata in libri d'epoca per il settore automobilistico, sì, che io ricevo a Torino, ho recensito vari libri, o meglio ho spulciato vari libri e ne ho ordinati alcuni, e cito questa. Allora, chi avesse a casa sua una raccolta della Domenica del Corriere, che comprende il numero 29 del 19 luglio 1903, avrebbe la prima tavola, illustrata da Beltrame, che era il grande illustratore della Domenica del Corriere del periodo, che ha questo titolo: Le conquiste della civiltà. L'arcivescovo di Milano compie visita pastorale in automobile. Fantastico. Elettrico. Notiamo quello elettrico perché nel momento nel quale automobile è ancora al maschile, sì, l'annunzio che diventa poi femminile, la Fiat l'adotta secondo la logica dell'annunzio, però allora avevamo gli automobili, lo stesso senatore Giovanni Agnelli nei consigli di amministrazione Fiat fino al 1910-1915 comincia a dire gli automobili, quindi bellissimo, un automobile elettrico. Però 1903 l'arcivescovo di Milano su un automobile elettrico, allora uno dice: è una cosa vecchia o nuova? È vecchia per quanto riguarda la genesi, perché l'automobile elettrica aveva dei numeri da dare alle automobili traballanti, scoppiettanti, che mal funzionavano a motore a scoppio nei primi del Novecento, però ha perso terreno nell'evoluzione del motore a scoppio per l'insufficiente autonomia delle batterie, che allora erano batterie tradizionali al piombo. Oggi la tecnologia di batteria agli ioni di litio permette in spazi contenuti e con pesi contenuti di avere una energia sufficiente a spingere un'autovettura media, per quanto c'è chi orienta la sua proposta commerciale, ne abbiamo già di Nissan come di Mitsubishi assieme sì. a Peugeot e Citroën, a autonomie di 150 km, 130, 140, c'è chi come Pininfarina che ha una joint venture con la francese Bolloré per questa Blue Car, che dovrebbe essere i primi esemplari sul mercato nel 2010, ma soprattutto produzione del 2011, assicura percorrenze nell'ordine dei 250 km. Quindi abbiamo degli step notevoli, perché le tradizionali automobili ad accumulatore a piombo più di 50 km non hanno mai fatto. Non riuscivano a fare, certo. Qui saltiamo il fosso e andiamo di fronte a una clientela che può dire di fare le percorrenze urbane e extraurbane con un'automobile elettrica, che però ha tutti i suoi problemi di ricarica. Eh sì, e su questo credo si giocheranno le grandi battaglie del domani. C'è chi ha ipotizzato le varie colonnine, chi ha detto è impossibile, figuriamoci, ci vogliono ore, e forse quel mercato di scambi di batterie, ti porto una batteria esausta, me ne prendo una piena, potrebbe essere una visione. Come vedete si sta discutendo molto a livello globale su questo, davvero le battaglie sotterranee sotto il cofano sono veramente violente, perché da questo dipendono gran parte dei successi o degli insuccessi di molte società. Professore, ci ritorneremo su questo tema, la invito già a fine anno a far parte della nostra ultima trasmissione per chiudere con le indiscrezioni di fine dicembre quello che è il mercato del 2009. A presto e grazie per ora. A presto e volentieri a disposizione. Grazie allora a tutti voi che ci avete seguito. Con la voce di Malagodi termina anche la nostra trasmissione. www.radio24.it e poi 4ruote@radio24.it. Fabio Cantadori è rimasto in regia con me, grazie Fabio. Roberto Rasia vi ha parlato, vi ringrazio e soprattutto vi augura buona guida.